Salva Danaio di Deborah Rosciani. Magari è questione di troppa sensibilità, ma sono soltanto motivi tecnici. E tu dici una bussola, dovevi almeno portarla con te. Una bussola, potevi almeno spiegarmelo come si usa una bussola. Scusa. Devo dire che l'idea del nostro Marco Lombardo, assistente del programma Salva Danaio, è stata geniale per aprire questa nostra trasmissione, perché davvero a volte una bussola che ci aiuti ad orientarci, o meglio ancora che ci dica dove andare, farebbe proprio comodo, anche se adesso usiamo prevalentemente il navigatore satellitare e altri strumenti per guidarci. Nella vita sicuramente, ma anche nel nostro bilancio di piccoli o grandi risparmiatori. Ci sono stati dei momenti della crisi recente in cui davvero sembra che tutti abbiamo smarrito la rotta. Ne parliamo questa mattina. Perché intanto buongiorno da Deborah Rosciani, devo essere anche un pochino educata con voi, perché si intitola proprio La bussola per il risparmiatore, il terzo volume della serie Risparmio e investimenti in tempo di crisi, in edicola domani con il Sole 24 Ore. È una... è un libricino appunto che si deve acquistare con il Sole, costa però 50 centesimi, quindi non è una grande spesa, ma è sicuramente un buon investimento per la nostra preparazione. Per il risparmiatore è sempre più difficile orientarsi fra l'altalena dei tassi e della borsa, le paure del debito sovrano, l'incognita delle valute e tutti gli altri segnali di rischio e di incertezza che l'economia lancia quotidianamente. Ormai sapete, questo anche per noi è diventato il pane quotidiano del quale parlare. Basti ricordare cosa è successo ieri in una giornata che è stata di nuovo piuttosto pesante per la borsa, soprattutto per quella italiana, sulla quale è caduto il peso dell'incertezza politica, che aggiunge altri colpi a quelli che già quotidianamente il mercato ci infligge. Con la crisi in corso, tanti risparmiatori si trovano a dover prendere decisioni importanti sui propri investimenti, ed è importante capire qual è la strategia migliore da attuare per salvaguardare il proprio portafoglio di investimenti. Noi ce ne occupiamo dunque oggi chiedendovi se pensate di aver già trovato la strategia migliore per difendere il vostro portafoglio, e ci vorremmo anche chiedere quali possono essere le soluzioni ai problemi sempre nuovi che si presentano in questo ambito. E come stiamo facendo da qualche settimana, se volete potete discutere con noi anche degli aspetti e delle parole di questa crisi che non vi sono chiari. Allora, buongiorno a Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Buongiorno a te e agli ascoltatori. E ben arrivato anche a Marco Lo Conte di Plus 24 del Sole 24 Ore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità come sempre di interagire con noi intervenendo in diretta. L'alternativa è quella di scriverci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Insomma, come vi stimola il tema la bussola per il risparmiatore? Avete perso la vostra bussola, il vostro navigatore satellitare, visto che, come vi dicevo, oggi abbiamo anche degli strumenti un po' più moderni? Come difendete il vostro portafoglio? Quali sono le strategie di sopravvivenza del vostro risparmio? Prima di parlare di tutto questo, però, un'occhiata alla borsa oggi. La guardiamo naturalmente con grande attenzione, perché ieri siamo tornati di nuovo a spaventarci un po'. Il sino milanese ha perso il 3,7%. Non sono molto piaciute le indicazioni politiche arrivate appunto dal Presidente del Consiglio, anche se l'effetto si è sentito di più sul mercato obbligazionario, con lo spread che si è di nuovo allargato prepotentemente. Il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco, anche qua un termometro sempre caldo, che ieri ha dato un responso molto chiaro rispetto alle indicazioni politiche che stavano arrivando: 370 punti base. E soprattutto ieri è successa un'altra cosa, che il differenziale appunto di rendimento tra il BTP italiano e quello spagnolo si è allargato ad un livello che non si era mai visto da quando è nata l'eurozona. 68 punti base, che magari a molti può dir poco, una cifra che può dir poco, ma per la verità in sostanza quello che il mercato ha detto è che i titoli di Stato italiani sono più rischiosi di quelli spagnoli. La borsa oggi, dicevamo, più nel 90% sul FTSE MIB, che recupera, quindi una bella fetta di quanto ha perso ieri, e stanno volando i titoli della galassia Fiat, i titoli Industrial più 5,76%, Fiat SPA più 4,86%, Exor più 4,11%, nel settore tecnologico va bene STM più 5%, il comparto industriale premia con un 3 punti di rialzo Pirelli, e poi la Popolare di Milano, che ormai vive di vita propria da molte sedute a questa parte anche oggi. Il titolo incassa il 5,55%. Chi invece scende oggi Finmeccanica, che ha avuto una bocciatura da parte degli analisti di HSBC. Popolare dell'Emilia Romagna meno 0,8 anche oggi. Ansaldo meno 0,38, trascinata probabilmente da Finmeccanica. Atlantia meno 0,26%. L'euro sul dollaro di nuovo a 1,38,04. Per la borsa è tutto. Per la verità, poi con il tema che affrontiamo stamattina in borsa rimaniamo in qualche modo, perché Maximilian Cellino, quello che accade in borsa comincia ad essere un po' il tema con il quale aprono la loro giornata molte persone che ci ascoltano, molti ascoltatori, tutti quanti i risparmiatori. Mi raccontava qualche giorno fa, vi racconto questo aneddoto, un professore dell'Università di Parma, il professor Francesco Daveri, che scrive per La Voce, uno degli animatori appunto del sito lavoce.info, che quando va in treno e apre il Financial Times gli capita molto spesso che qualche persona che non ha come dire esattamente l'immagine di chi si interessa molto di finanza, la prima domanda che fa è: ma mi scusi, lei per caso ha sentito come va lo spread oggi? Sicuramente qualche anno fa questa domanda nessuno se la sarebbe mai fatta. Maximilian, che dici? Esatto, spread è una delle parole chiave, e fino a qualche anno fa le famiglie lo conoscevano per i mutui, perché rappresenta il ricarico che le banche applicano sui tassi per poi fare il tasso di interesse a cui prestano i soldi. Adesso invece spread, che comunque ricordiamo vuol dire differenziale, viene riconosciuto, viene inteso come la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ed è un po' un indicatore, un barometro per capire come va la situazione, come va lo spread, dicono appunto come prima domanda, perché quando questo sale, questo barometro sale, vuol dire che c'è molta tensione sull'Italia, sul debito italiano in particolare. Tu prima facevi riferimento anche su un altro spread, quello tra Italia e Spagna, se ne è parlato molto in questi giorni. Comunque sale per l'Italia, e quando questo valore è molto elevato, indica che il nostro paese viene percepito più a rischio, e allora ecco che vengono fuori domande sui BTP e sui bot più che sulla borsa. Devo dirti che già questa relazione che abbiamo fatto, ma non è che l'abbiamo fatta noi, l'ha fatta ieri il mercato, e molti si sono soffermati anche sui giornali questa mattina, tra politica e differenziale di rendimento. In molti ascoltatori ci chiedono se sia concreta, se sia un ragionamento corretto da fare. Un ascoltatore, Nini da Catanzaro, ci dice: è davvero pensabile che la caduta del governo possa incidere in maniera rilevante sull'ormai famigerato spread? Beh, di fatto, da quando Zapatero in Spagna ha annunciato le nuove elezioni in novembre, lì le cose si sono un po' tranquillizzate, non che l'economia sia cominciata a volare, però comunque sul mercato obbligazionario un pochino la situazione appunto si è calmata. Marco Lo Conte, chiedo anche a te, la relazione fra mercato e politica vale sempre? Beh, ricordo quanto leggevo qualche giorno fa, mediando dalla medicina l'analisi dei mercati finanziari: quando c'è una malattia ci sono i sintomi, poi la malattia si acuisce, arriva al suo apice, poi si iniziano a prendere le prime cure, cure un po' più intense se la malattia non passa, poi c'è tutto il decorso che può essere anche lento, poi la convalescenza. Ebbene, qui si tratta di capire a che punto siamo di questa parabola, se siamo ancora all'apice oppure ai medicinali, che poi devono iniziare a fare effetto. Ecco, dei medicinali veri e propri non si ha notizia dal punto di vista normativo, si attende un decreto sviluppo, e questo potrà essere forse un elemento positivo. Valuteranno poi i mercati, così come valutano anche come dire, aspetti apparentemente secondari, però è evidente che quanto avvenuto ieri in Parlamento, con un evento cardine, insomma, quando il Presidente del Consiglio parla a uno dei poteri dello Stato, insomma, l'Assemblea eletta in qualche modo dai cittadini, è evidente che quello è stato una rappresentazione che poi viene valutata dai mercati e dagli stessi partecipanti, chi c'era e chi non c'era. Alcuni non c'erano, altri erano presenti. In sostanza evidente, in Spagna sono già alle medicine che passano anche da un ricambio politico. In Italia questo ricambio politico fino a questo momento non c'è stato, vedremo tra un'ora con la fiducia in Parlamento se ci saranno dei cambiamenti rispetto al passato oppure se si andrà avanti. L'articolo di Stefano Folli questa mattina sul Sole 24 Ore è illuminante su il decorso parziale, presunto decorso della malattia italiana. Allora, ritorniamo alla nostra bussola per il risparmiatore. Io vi leggo intanto quali strategie alcuni risparmiatori che sono all'ascolto di Salvadanaio e di Radio 24 stanno adottando adesso per mettere al riparo il proprio investimento. Andrea ci dice: io compro titoli di Stato italiani per sostenere il mio paese, quindi qui la filosofia di investimento è diversa evidentemente. Un altro ascoltatore ci dice: oro, unica salvezza per i tuoi risparmi dall'inflazione. Altri ascoltatori che invece un po' contestano l'impostazione della trasmissione, ancora una volta sollevando il fatto che non vedono la crisi nel comportamento di molte persone che frequentano, ma questa è un'altra cosa. E faccio progetti Ciro da Napoli a medio e lungo termine e compro azioni a buon mercato. Maximilian, quali sono gli orientamenti che avete inserito all'interno della bussola, appunto, che domani è in edicola con il Sole 24 Ore? Beh, devo dire intanto che la bussola nasce dai giorni dell'apice della crisi di agosto come un appuntamento quotidiano sul Sole 24 Ore. È un articolo che prende spunto da un fatto quotidiano e dà un consiglio, un'indicazione di comportamento al risparmiatore. Più che altro un'indicazione che ha a che fare sì con il quotidiano. Molto spesso facciamo riferimento, non so, all'asta dei bot, dei BTP, oppure a un rimbalzo di borsa un po' avventato, oppure anche a un movimento un po' particolare dell'oro. L'ascoltatore prima diceva, affrontava anche questo tema sul quale si potrebbe parlare a lungo. Ecco, quindi questi articoli servivano a dare un'indicazione nell'immediato, ma non soltanto nell'immediato, hanno un po' validità generale, perché la prima difesa è la costruzione di un portafoglio equilibrato. Molte persone sono trovate a mal partito da agosto in poi perché avevano dei portafogli squilibrati, troppe azioni, troppi titoli di Stato, e quindi hanno sofferto. Noi cerchiamo di aiutarli a ricostruirlo un po' meglio per affrontare in modo migliore, con minori perdite, la prossima eventuale crisi che tutti ci auguriamo non avvenga, ma che prima o poi ci sarà. Allora, io tra l'altro volevo, a tal proposito, sì, infatti ha lanciato un messaggio sinistro Maximilian Cellino che adesso dobbiamo approfondire per forza nella seconda parte della trasmissione, a proposito delle persone che sono incappate in disavventure finanziarie, tanto per, come dire, infliggere un altro colpo, questo è un termine che ho utilizzato all'inizio della trasmissione, so che adesso devo andare in pausa, Roberto, e ci vado, c'è anche questo caso che il Sole 24 Ore ha sollevato da un paio di giorni, e io devo dire che qualche ascoltatore qualche tempo fa ci aveva scritto su questa cosa, non abbiamo fatto in tempo ad indagare in maniera appropriata, la questione delle banche irlandesi, perché qualche centinaia di risparmiatori italiani si sono trovati in portafoglio obbligazioni delle banche irlandesi che hanno ristrutturato il proprio debito, e adesso queste obbligazioni non valgono più nulla, solo perché appunto queste banche, non si sa in che maniera, abbiano comunicato questa ristrutturazione ai colleghi italiani che avevano venduto e collocato presso la platea dei piccoli appunto questi bond, per cui adesso insomma abbiamo alle porte un altro piccolo grande scandalo di risparmio tradito. Maximilian Cellino e Marco Lo Conte con noi questa mattina, colleghi del Sole 24 Ore, per intanto presentarvi la bussola per il risparmiatore, questa iniziativa editoriale giunta alla sua terza puntata. È una pubblicazione appunto nell'ambito della serie Risparmio ed investimenti in tempo di crisi che il Sole 24 Ore appunto sta portando avanti da qualche tempo. Questa bussola del risparmiatore è anche un po' la raccolta dei principali articoli sui temi recenti che sono usciti con il Sole 24 Ore nelle ultime settimane, in particolar modo da quando la crisi ci ha praticamente rovinato le vacanze, da agosto, quando in particolar modo, lo ricordo ancora, visto che anche il tema dal quale siamo partiti questa mattina, lo spread, ci ha reso indigeste le ferie, perché ricorderete che ad agosto era volato sui 400 punti base ed era quel livello che aveva peraltro obbligato anche la Banca Centrale Europea a comprare i nostri titoli di Stato, ad iniziare a comprare i nostri titoli di Stato. C'è un ascoltatore peraltro che ci chiede: ma che cosa succederebbe se il differenziale fra bond, fra BTP e Bund arrivasse a quota 500? Santo cielo, speriamo di no. Beh, intanto significherebbe, visto che qualcuno ne fa anche una questione di percentuale, dice che non siamo chiari, Marco Lo Conte, Marco aiutami tu magari, sì. 5% significa che praticamente rispetto a quanto rende un titolo decennale tedesco, il nostro rende il 5% in più, che potrebbe essere anche una buona notizia, no? Se non fosse che invece in realtà è lo Stato italiano che deve remunerare molto di più i suoi investitori per collocare i titoli di Stato. E gli investitori non sono tutti italiani, anzi per una buona parte erano poco più della metà stranieri fino a qualche mese fa. La quota di investitori stranieri in titoli di Stato italiani, in particolare BTP, si è ridotta negli ultimi mesi secondo alcune rilevazioni, ma sostanzialmente siamo oltre il 40%, il che vuol dire che gli interessi sul debito pubblico con cui sono finanziati, che i BTP finanziano, vanno per buona parte all'estero, all'incirca 40 miliardi l'anno escono dal nostro paese, vanno a remunerare investitori che investono in titoli di Stato italiano. Allora, se arrivasse a quota 500, e chi può dirlo? Noi intanto si dovrebbero pagare più tasse. Esattamente, non avremmo mai immaginato che potesse arrivare a quota 400, sarebbe, che ci fosse Maximilian, questa esplosione recente. Sarebbe abbastanza grave se arrivasse a 500, perché facendo due rapidi calcoli, visto che il decennale tedesco è attorno al 2%, vorrebbe dire che su 10 anni l'Italia dovrebbe pagare tasso di interesse del 7%. C'è da dire che però questa esplosione in certi frangenti è stata determinata anche dal fatto che i decennali tedeschi sono scesi moltissimo. È vero, per cui, però un livello del 7% per un decennale italiano, un livello che secondo molti è già oltre il punto di non ritorno. Ricordo che la Banca Centrale Europea è intervenuta massicciamente ad acquistare titoli di Stato italiani e spagnoli per cercare di abbassare di tirare su i loro prezzi ed abbassare i rendimenti. La Banca Centrale Europea si dice, insomma, che tra gli analisti che abbia fissato al 6%, una sorta di linea sulla sabbia oltre il quale non andare. In effetti, dopo i massicci acquisti, il BTP a 10 anni, che è quello che viene utilizzato come metro di paragone, poi gli altri si muovono più o meno di conseguenza, subito dopo è sceso al di sotto del 5%, diciamo che si è attestato attorno al 5%, poi con il fatto che la Banca Centrale Europea ha un po' ridotto gli acquisti, che la situazione in Europa e anche in Italia non si è poi così tanto rasserenata, adesso siamo di nuovo sul 5,80, sì. Almeno ieri insomma eravamo su questo livello. Tra l'altro non ci ricordiamo che adesso con Mario Draghi, che andrà a guidare la Banca Centrale Europea, magari molti solleveranno anche il tema del conflitto di interessi su queste operazioni. Tra l'altro lui già ha detto, adesso a prescindere diciamo dal fatto che Draghi è italiano, che comunque la Banca Centrale Europea non può fare da banco per l'eternità e quindi non potrà proseguire in questi acquisti ancora a lungo. Ritornerei sul tema iniziale, la bussola del risparmiatore. Che bussola avete adottato, quantomeno che tipo di strategia di investimento avete adottato per proteggere il vostro denaro? Poi con Marco Lo Conte vorrei fare anche un ragionamento sul consulente adatto in questo momento, perché molti promotori finanziari sono in grande difficoltà ad affrontare con serenità i propri clienti che hanno perdite ovunque, quindi hai voglia di indicare ad avere pazienza in un frangente come questo. Comincerei con Maurizio da Forlì. Buongiorno, sarò molto breve. Io pensavo in ottica difensiva, ne ho già il mio portafoglio, se ne parla anche molto poco, i cosiddetti sovranazionali, cioè le BEI, le World Bank, la Nordic Investment Bank, perché ritengo che siano dei titoli abbastanza stabili e abbastanza difensivi. Certo, al momento i prezzi sono un po' elevati perché vanno comprati in momenti di più calma, diciamo così. E volevo chiedere se poteva essere un'idea, visto che ho 35 anni, comprare uno di questi titoli, uno zero coupon, in ottica pensionistica, tipo un trentennale. Allora Maurizio, che bella domanda. Qua tra l'altro dobbiamo far mettere ai miei colleghi del Sole 24 Ore anche un po' i panni dei consulenti, non so quanto ci si mettano volentieri in queste vesti, però qualche volta ci capita anche di dover fare questo. Le obbligazioni sovranazionali, le obbligazioni degli enti sovranazionali intanto hanno il vantaggio di avere tutte, se ancora conta qualcosa, un rating molto elevato, perché in genere hanno tutte la AAA. Chi vuole, chi è che alza la mano? Maximilian Cellino. Però insomma è un tema del quale effettivamente non si parla moltissimo, ma sono prodotti di investimento che possono essere facilmente collocati tra i cosiddetti retail, i piccoli risparmiatori. Sì, si trovano, sono anche quotati sui mercati regolamentati, MOT e TLX si possono facilmente trovare. Li riporta il Sole 24 Ore in una delle pagine delle tabelle, porta nelle ultime pagine in cui riporta le tabelle quotidianamente sui rendimenti dei principali titoli scambiati al mercato, che è il MOT. Vale la pena ricordare appunto che questi, cosa sono questi enti sovranazionali? Sono, riconosciamo la BEI, BIRS, insomma, la Banca Europea degli Investimenti o simili, che emettono dei prestiti, godono appunto dei rating più elevati, AAA, eccetera, eccetera, sono per definizione solvibili, sono anche una buona alternativa, però come diceva giustamente l'ascoltatore in precedenza, si comprano a un prezzo molto alto in questo momento, perché come tutte le AAA, a partire dai Bund tedeschi, sono stati premiati dalla fuga verso il rischio. Gli investitori hanno venduto BTP o azioni, quello che volete, le attività più rischiose, e hanno acquistato questi titoli. Adesso li acquistate a un prezzo molto molto molto elevato, e quindi questo vuol dire che vi danno dei rendimenti piuttosto bassi, quindi di questo dovete tenere conto. Secondo me si possono inserire, secondo i gestori, non parlo proprio a nome mio, si possono inserire in un portafoglio a patto che ci siano anche altre attività. Questo qui, quella dei sovranazionali, può essere una sorta di cuscinetto nel caso le cose andassero come non si spera. È un argine, come avere dei Bund che rendono pochissimo, che però possono funzionare da cuscinetto nel momento in cui la situazione diventa più critica. Un'altra piccola parentesi prima di passare al discorso pensionistico, questo lo farei parlare a Marco. Avevo già Marco la domanda pronta Conte, sulla perché... rampa di lancio. Ci sono anche emissioni BEI o BIRS in valute estere, in lire turche, insomma, in valute diciamo più pregiate, anzi non più pregiate, in valute che garantiscono una remunerazione più elevata. Questo è un buon modo per andare al di fuori dell'Italia, mantenendo comunque una certa solidità dell'emittente, perché l'emittente rimane sempre la banca, la BEI o la BIRS di turno. Per cui non ci sono grossi dubbi sulla solidità dell'emittente, i dubbi ci sono sulla valuta, perché voi state facendo un acquisto in lire turche, in rand, in quel sudafricani, in quello che sono, e quindi avrete dei rendimenti maggiori, ma potrete eventualmente soffrire delle perdite e perché no anche magari degli extra guadagni dalle variazioni della valuta locale rispetto all'euro. Allora, prima di andare al tema previdenziale, voglio andare a sentire Luigi De Luca, perché tocca una questione sulla quale ciclicamente i risparmiatori sono preoccupati, soprattutto quando la crisi si acuisce, come è riaccaduto appunto da quest'estate a qualche giorno fa, come è accaduto soprattutto nel periodo nero della crisi, che è stato quello a cavallo tra il 2008 e il 2009, il tema della solidità della banca alla quale affidiamo i nostri risparmi. Luigi, buongiorno. Luigi, dov'è finito? Mannaggia, ci ha chiuso lì, non ho avuto pazienza di aspettare. Il tema era se la banca alla quale affidiamo il nostro denaro fallisce, che cosa succede. Allora, possiamo con qualcuno di voi raccontare la questione di Bank of Ireland, perché abbiamo scoperto appunto che queste banche irlandesi, che sono state in grandissima difficoltà, hanno avuto potenti iniezioni di capitale da parte dello Stato, e però insomma i loro debiti li hanno dovuto ristrutturare. È successo anche per Bank of Ireland, come vi dicevo, per un'altra che si chiama Allied Irish Bank, e voi direte: e a noi che cosa ce ne importa di tutto questo? Ce ne importa sì, perché abbiamo scoperto che almeno tra un centinaio e 200 risparmiatori, che possono essere anche pochi rispetto a tutti quelli che ci ascoltano, avevano però in portafoglio anche questi titoli. Non sarebbe niente di grave se non fosse che praticamente da tipo 1000 euro di risparmio che avevo, faccio un esempio solo per semplificare, si sono ritrovati improvvisamente a non avere più niente in portafoglio. Come è stata condotta questa ristrutturazione, che è stata sollevata proprio dal Sole 24 Ore da ieri negli articoli di Moria Longo? Devo dire che è una modalità piuttosto insolita, perché le banche irlandesi hanno deciso di effettuare questa ristrutturazione proponendo ai clienti una conversione delle loro obbligazioni in titoli o azioni in altri strumenti, e questo di solito procedure normali di ristrutturazione, come capita per gli stati sovrani, normali come tra virgolette, esatto, ovviamente, perché si tratta sempre però, esatto, di come problemi. Potrebbe molto probabilmente capitare per la Grecia, perché ormai esatto, come è capitato per l'Argentina, molti risparmiatori italiani lo sanno, hanno avuto degli altri tipi di bond, come è capitato per Parma, hanno avuto le azioni all'Italia all'Italia le vecchie azioni trasformate in titoli di Stato. E qui la particolarità è chi ha accettato l'offerta ha avuto in cambio dei titoli, delle azioni, quello previsto dalla ristrutturazione. Chi non ha accettato, niente, ha incassato semplicemente un centesimo simbolico, è come se avesse perduto tutto. Allora, qual è il problema? È che molti italiani l'accettazione presuppone che tu sappia che cosa ti venga proposto. Esatto, molti italiani avevano in tasca questi titoli e sono caduti dalle nuvole, perché nessuno ha avvertito loro che c'era questa possibilità. Soltanto una minima parte italiana è riuscita a capire che c'era questa sorta di norma capestro ed ha aderito alla ristrutturazione. Altri sono rimasti con in mano un pugno di mosche. C'è un terzo aspetto però, guarda, devo andare in pausa, lo sollevo solo molto rapidamente, che per la verità sembra che questi titoli, ancora una volta, fra il piccolo risparmio, non ci dovesse finire, perché erano titoli riservati solamente agli investitori istituzionali, pertanto ancora una volta si è verificata la procedura del riversare tra i piccoli risparmiatori, appunto, obbligazioni ad un certo rischio. Intanto qua abbiamo allargato il tiro alla nostra conversazione a temi veramente anche un po' ludici, perché qualche volta dobbiamo anche noi alleggerirci la vita e non sempre, non è che viviamo di pane finanziario. Io, Marco Lo Conte, Maximilian Cellino, tutt'altro, e stavamo godendoci le melanzane, una ricetta, non lo so, la Sora, qualcosa del genere, di Benedetta Parodi sulla 7 in questo momento. Vabbè, insomma, divertiamoci un po' anche noi, ma ritorniamo invece ai temi che preoccupano le persone che ci ascoltano. Abbiamo recuperato Luigi De Luca, poi vi faccio finire di raccontare Bank of Ireland, la pensione con un titolo di un ente sovranazionale zero coupon, qua davvero è caduto un'altra volta. Allora, Marco Lo Conte, dimmi un po' te, se una banca fallisce in Italia che succede? Ah, di tutto. No, allora, se la banca fallisce, si aprono una serie di procedure. In genere, diciamo che la Banca d'Italia è lì apposta per guidare il caso di un istituto di credito che si trovi in difficoltà. Cosa succede ai correntisti? Questo credo che sia il punto più importante da sottolineare, credo che interessi di più i nostri ascoltatori. Ebbene, le banche italiane sono iscritte al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che sostanzialmente garantisce i depositi dei correntisti fino a 100.000 euro. Questa soglia viene garantita la restituzione del denaro sul conto corrente, depositato sul conto corrente prima del momento, prima del crack, nelle settimane successive al crack stesso, grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ci siamo esercitati nel 2008 anche a capire la capienza di questo fondo, se tante perché banche è alimentato da tutte le banche, esatto. Essendo un fondo di tutela, percependo piccoli importi da tutti gli istituti, è in grado di garantire la criticità di istituti anche di grosse dimensioni, ma forse non di tutti gli istituti tutti insieme. E infatti qualcuno ricorderà che all'incirca esattamente 3 anni fa ci fu un intervento dell'esecutivo, il quale per bocca del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia, sottolinearono come, a prescindere dal livello offerto dal Fondo di Interbancario di Tutela del Deposito, ossia 100.000 euro, il governo sarebbe comunque intervenuto a garantire questo, ha calmato e ha placato le tensioni sugli istituti bancari che erano al centro dell'uragano in quei giorni. Spero che questo fosse ciò che voleva sapere il nostro ascoltatore, che ripetutamente è caduto. Fra tutti quelli che ci sono in linea abbiamo pescato proprio quello che cadeva. Maximilian. Garantisce i conti di deposito, inclusi quelli ad alto rendimento. Ma no, ovviamente non garantisce i bond bancari, che molti risparmiatori hanno sicuramente in tasca, perché allo sportello vengono piazzati con una certa sollecitudine. Guarda, non apriamo la parentesi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, perché qua altrimenti cominciano a chiederci 5.000 cose solo su questo. Però è anche indicativo che nella ricerca di protezione e di tranquillità gli ascoltatori si interroghino anche su giustamente, certo. Anche perché noi in qualche modo siamo qua apposta, nel senso che è fondamentale, siccome c'è un gran parcheggio tra l'altro del proprio risparmio, esatto. Strumenti di liquidità in questo momento, quindi chiaramente si chiedono se la banca fallisce, si registrano importanti crescite dei depositi sui conti correnti, vista come dire una tendenza prudenziale insomma dei risparmiatori. Il nostro ruolo anche esplicitato insomma nella bussola per il risparmiatore, che appunto domani sarà in edicola col Sole 24 Ore, è quello di fornire quelle informazioni utili, quelle informazioni di servizio importanti e indispensabili per il risparmiatore per compiere le proprie scelte. Noi non diamo consigli, non diciamo cosa deve fare la gente con i propri soldi, non ci sostituiamo al processo decisionale che ognuno deve intraprendere secondo i propri bisogni, le proprie esigenze, cercando di capire che cosa veramente ha bisogno. Però forniamo tutte le indicazioni utili. Per esempio, adesso il caso del titolo oggetto dei nostri recenti approfondimenti e di Moria in particolare, Banca d'Irlanda, Bank of Ireland. È chiaro, era un titolo subordinato molto particolare, ma è importante essere informati soprattutto dei titoli in cui si investe, perché un campanello d'allarme lo si può sentire per tempo. D'altronde l'Irlanda non sta bene già da diversi anni, e quindi la responsabilità poi sarà accertata. Ma chi mette i propri denari in un titolo è opportuno che si informi con una certa sollecitudine sull'emittente, se è titolo obbligazionario, o su la società, se si parla di un titolo azionario. Tra l'altro, un'altra questione che è stata sollevata negli ultimi giorni, lo ricordo perché noi la prossima settimana ci ritorneremo, è stato quello di Dexia, la banca franco-belga che è stata nazionalizzata dal governo belga lo scorso fine settimana. C'è anche la filiale, passatemi il termine, italiana, Dexia Crediop, e anche in questo caso abbiamo scoperto molti detentori di obbligazioni di questa banca. Non solo, ci sono anche molte polizze vita distribuite da principali istituti italiani che sono indicizzati a questi titoli, per cui anche in questo caso si è scoperto appunto che si avevano delle polizze vita in portafoglio, lo hanno scoperto molti ascoltatori che ci hanno chiamato nei giorni scorsi, polizze vita a contenuto finanziario, quindi anche lì sono prodotti appunto che vanno analizzati nel contenuto. Adesso non è che vogliamo fare sempre i bravi su tutto, però insomma ci sentiamo ogni volta di darvi queste raccomandazioni. 53 minuti, 2 minuti prima di salutarci, chi ascolto? Davide da Monza, perché è il tema delle banche irlandesi che abbiamo sollevato, quindi magari chiudiamo con questo. Davide, buongiorno. Buongiorno a lei. Chiamo in riferimento appunto alle banche irlandesi, perché nella nostra famiglia abbiamo avuto questo problema. Una banca è crollata e il nostro consulente ci ha informato chiaramente, però dicendoci che non potevamo accedere a cambi di azione, nel senso cambi di tipo di proposte robe varie, in quanto la Consob italiana non aveva recepito e accettato questo modifica di accordi, diciamo. Io non lo intendo, non sono finanziato. Allora Davide, guardi, ascolti, siccome veramente Moria Longo, che ha curato il tema per il Sole 24 Ore questa mattina, non è con noi, non immaginavamo di dover approfondire in maniera così accurata il tema questa mattina, facciamo una cosa, che adesso noi la richiamiamo e magari scriviamo un po' più il dettaglio del suo caso e cerchiamo di capire appunto perché secondo il suo consulente la Consob avrebbe dato questa risposta. Per la verità il tema è che non si sapeva che la banca stava ristrutturando il suo debito, quindi non è stata data l'opportunità ai risparmiatori italiani di aderire a questo concambio, perché poi chiamiamolo come va detto, come va chiamato, in azioni della banca o in nuovi titoli. Maximilian, in 10 secondi. Io non ho capito se fosse si riferisse a questo caso specifico o meno. In realtà sì, è vero che non era necessario fare un prospetto informativo in Italia, né per il collocamento né per la ristrutturazione. Forse il consulente gli ha spiegato questo, siccome non c'era la necessità di presentare un prospetto, evidentemente questo documento a lui non è arrivato, per cui... Devo dire che su questa vicenda si assiste al più classico scaricabarile italiano, perché le banche dicono ma però forse doveva essere la Consob, dice no, noi non c'entriamo niente, sono le banche che dovevano avvertire, ma Clearstream non ci ha avvertito, la banca irlandese, no, quindi... Aspettiamo solo qualche giorno e vedrei che le associazioni dei consumatori, quelle che delle interrogazioni parlamentari. Allora magari ci ritorneremo anche su questo. Sì, abbiamo aperto un sacco di parentesi, non ne abbiamo chiusa alcuna. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Marco Loconte e Maximilian Cellino. Grazie. Ci vedremo per un'altra pubblicazione. Marco Marco. Domani la copertina di Plus 24 in due secondi. Non chiudete l'ombrello perché non è ancora finita. Le euforie hanno lasciato spazio un po' di prudenza negli ultimi giorni, ma insomma non è la rondine forse che fa primavera, questi rialzi di borsa dell'ultima settimana, degli ultimi 10 giorni. Bisogna controllare bene le proprie operazioni anche al di là della cronaca quotidiana. Bene, lunedì, a lunedì, buon fine settimana a tutti.